Da te era bello restare, ogni sera sognar l'amore con te, senza parlare, nel silente depo d'una fiamma che dava al cuore l'amore. Ma tu già scordata ti sei di me, chissà l'altro amor chi sarà. Da te era bello restare, cuore a cuore a sognar con te, tanto amore. Scordata ti sei di me, chissà l'altro amor chi sarà. Da te era bello restare, cuore a cuore a sognar con te. Love.